Amen. Amen. Puoi girarti e dirlo alla persona che ti sta a fianco, dirti: sai che sei amato da Dio, sai che sei amata da Dio, sai che hai un Padre celeste così buono che ha dato il suo figlio a morire per te. Questo è quanto lui ti ama. Questo è quanto lui ti ama. Che bello questo brano nuovo. Alleluia a Gesù che mi libero. Non è così. Questi sono i canti che ti fanno venire voglia di essere worship leader tu, no? Di essere tu qui con la chitarra, bello questo brano, lo voglio cantare io. Però vi risparmio, ok, ho fatto la mia esibizione, vi potete accomodare. Ma c'è potenza nell'adorare il Signore, c'è potenza nel cantare a Lui, c'è potenza nell'alzare le mani, c'è potenza nel confessare la parola. È per questo che io forse sarò pure antipatico e forse ti scomodo anche da quella posizione dove te ne vuoi stare bello comodo, spettatore, ad osservarmi, però io voglio che noi comprendiamo che tutto quello che facciamo qui è perché ci aiuta a comprendere che cosa poi dobbiamo fare quando usciamo da qui. E quando usciamo da qui è molto più importante che cantiamo le stesse canzoni che cantiamo qui. Avete presente che ogni film c'ha la sua colonna sonora? E sapete che le nostre giornate possono avere delle colonne sonore? E la nostra giornata può avere una colonna sonora che è tutt'altro, è molto diverso dalla colonna sonora che abbiamo appena cantato. Alleluia, e le parole non le imparate, me le proiettate per piacere, così vi canto tutto il brano, no, vi risparmio. Però questo brano non ha efficacia nel momento in cui, ma non c'ho proprio la voce, l'ho già persa, io sono molto intonato, è che è la voce che ho perso. Però ecco, che cosa voglio dire? Che le nostre colonne sonore delle nostre giornate possono essere delle lamentele, possono essere delle musiche malinconiche, possono essere delle musiche che ci portano a disperarci. E la colonna sonora delle persone che ci stanno attorno, ovvero della società che ci circonda, è una colonna sonora che non suona tanto bene, che non porta tanto incoraggiamento, che non è certamente di lode e adorazione al nostro Dio. Ed è per questo che noi è molto importante che facciamo nostri questi brani e li portiamo al nostro lunedì, al nostro, non solo al lunedì di Pasquetta, anche al lunedì al lavoro, il nostro martedì, il nostro mercoledì, e modifichiamo la nostra colonna sonora quotidiana. Vi piace? Può essere un ottimo titolo di predica. Cambia la tua colonna sonora. Però stasera non parlerò di questo, però me lo segno, qualcuno se lo segni, perché penso che ho già una prossima predica da potervi dare. Cambia la tua colonna sonora. Se sei venuto malinconico qui questa sera, se sei venuto con lamentela, se sei venuto col grigiore del cielo cupo, è primavera per te in Cristo Gesù, perché Gesù è risorto, Lui è vivo e Lui ti fa trionfare e tu puoi cantare. Siete più intonati di me, grazie Romina, siete molto meglio di me. Alleluia, a colui che mi liberò, noi siamo liberi. Io voglio parlare della Pasqua, perché oggi è Pasqua ed è una celebrazione meravigliosa e sancisce due eventi fondamentali nella Bibbia, che troviamo nella Bibbia, sancisce due eventi che si sovrappongono, sono due festività che si sovrappongono perché la seconda sostituisce la prima. E la prima è la celebrazione della liberazione del popolo di Israele dal dominio e dalla tirannia del faraone in Egitto. Ci ricordiamo questo. E quindi la prima Pasqua è fondamentalmente quello che è l'ultima cena che il popolo di Israele ha mangiato prima di uscire dall'Egitto. La seconda Pasqua, invece, sostitutiva alla prima, è l'ultima cena che Gesù ha celebrato con i suoi discepoli, dando significato a quella che è l'espiazione del peccato attraverso la sua morte e la sua resurrezione. Per questo noi mangiamo pane e vino, perché il pane simboleggia il corpo di Cristo che è stato torturato per noi e il vino simboleggia il suo sangue versato per noi per lavare i nostri peccati. Quindi la prima Pasqua, la Pasqua che veniva celebrata dal popolo di Israele, e anche Gesù ha celebrato più volte, noi leggiamo nei Vangeli che più volte Gesù si è ritrovato a celebrare questo tipo di Pasqua, ci ricorda che il popolo di Israele è stato liberato per mano potente di Dio attraverso Mosè dalla tirannia e il dominio del faraone. La seconda Pasqua invece ci ricorda che noi siamo stati liberati dalla tirannia e dal dominio del peccato di Satana sulle nostre vite, e questa volta non è Mosè che ci ha liberati, ma qualcuno più grande di Mosè, Gesù. Infatti Gesù è il Mosè migliore. Nella sovrapposizione dei due eventi, Gesù è il Mosè migliore. Posso dirvi questa cosa? Gesù non è morto a caso a Pasqua. Gesù non è morto a caso durante la festività della Pasqua del popolo di Israele, perché la festività pasquale che celebrava il popolo di Israele era un'anticipazione. Quindi per più di 1200 anni loro hanno celebrato ogni anno la loro liberazione dal dominio del faraone, e finalmente Gesù ha fatto coincidere la sua morte e resurrezione con questo evento per dire: c'è una liberazione più grande che voi otterrete nella mia morte e nella mia resurrezione. Ci piace? Quindi la prima Pasqua ci ricorda che è cominciata una nuova storia per il popolo di Israele, perché letteralmente dal momento in cui loro sono usciti dall'Egitto, Dio ha detto a loro: cominciate un nuovo calendario. L'inizio dell'anno cerimoniale cominciava proprio con Pasqua, comincia ancora con Pasqua nel popolo di Israele, nell'ebraismo. E quello che Gesù ha fatto è darci un nuovo inizio. La nostra storia cambia nel momento in cui noi crediamo nella sua morte e resurrezione, e lui ci dà un nuovo inizio. Vedete il parallelismo, quanto è bello. Un altro parallelismo è che la Pasqua del popolo di Israele sanciva quello che era il passaggio di governo, di autorità, da ritrovarsi sotto il dominio, sotto la pesante oppressione del faraone e di tutti i sovrintendenti che c'erano in Egitto. Ora il popolo di Israele viene liberato da questo governo e ricade sotto un altro tipo di autorità, l'autorità di Mosè, quale guida loro nel deserto, e l'autorità diretta di Dio che li guida ogni nuovo giorno attraverso una colonna di fuoco, una nuvola di giorno che dava loro direzione e guida. E la stessa cosa vale per noi oggi. La Pasqua per noi sigilla quello che è un passaggio dal dominio, dal governo, dall'autorità di Satana sulle nostre vite, a quello che invece è l'autorità, il governo, la guida di Gesù Cristo su di noi, che è il Re, il nostro Re. Noi siamo nel suo regno. 1 Pietro 2,9 dice che noi siamo stati tirati fuori dalle tenebre e trasportati nella sua meravigliosa luce. Prima eravamo sotto il regno nel quale Satana governa, oggi siamo nel governo dove Cristo Gesù governa nelle nostre vite. Non è meraviglioso questo? Quindi io voglio parlare proprio di questo, perché la Pasqua, è vero, ci ricorda la liberazione. Però io vorrei stasera che noi non celebrassimo solo una liberazione, ma noi celebrassimo molto più di questo, che noi celebrassimo il liberatore, il conduttore, la guida, l'autorità sulle nostre vite. Perché sapete una cosa? A volte come credenti noi siamo alla ricerca costante di liberazioni. Vogliamo liberazione, tutto il mondo vuole essere liberato costantemente da qualcosa. Vogliamo essere liberati dalla malattia, vogliamo essere liberati dalle circostanze che non vanno bene, vogliamo essere liberati da quella che è una situazione difficile lavorativa, vogliamo essere liberati da quella che è una condizione economica che non va bene, vogliamo essere liberati dalle relazioni che non funzionano, vogliamo essere liberati da così tante cose. Noi desideriamo libertà, libertà, libertà, e quindi cerchiamo Dio per questa liberazione. Però Dio non è la lampada, no, il genio della lampada, no? Sapete quella storia, no? Che strofini la lampada e esce il genio e hai tre desideri a disposizione. Il nostro Dio è molto più di questo e vuole essere molto più di questo. Non vuole essere colui che risponde a bacchetta ai nostri bisogni mano a mano che si affacciano nella nostra vita, ma vuole essere il nostro costante conduttore e costante liberatore ogni nuovo giorno. Gesù dice: se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. E non funziona quindi così che noi viviamo e celebriamo la liberazione momentanea e poi torniamo alla nostra vita. Dio vuole essere la nostra guida quotidiana, come Mosè era una guida a partire dalla liberazione del popolo dall'Egitto, una guida quotidiana per il suo popolo per portarli alla terra promessa. Ora, per capire meglio che cosa sto dicendo, voglio portarvi alla lettura di quello che avviene subito dopo che il popolo di Israele esce dall'Egitto. Perché è interessante, è molto, molto interessante questa cosa. Perché il popolo di Israele aveva avuto una promessa molto chiara da parte di Dio: io vi libererò dall'Egitto e vi farò entrare nella terra promessa, una terra dove scorre il latte e il miele, dove sarete indipendenti, dove non avrete più dominio. Però il popolo di Israele non aveva ben capito che questa terra promessa non era nell'istante in cui, non l'avrebbero avuta nell'istante in cui sarebbero usciti dall'Egitto, no? Loro si immaginavano: ok, siamo fuori e quindi già dentro la terra promessa. No, c'è stato un percorso, e noi anche nella parola di Dio troviamo nel Nuovo Testamento che la Chiesa si trova in questo percorso. La terra promessa non è qui sul nostro soggiorno terreno. Noi abbiamo una terra promessa che è molto più gloriosa, molto più bella, della quale abbiamo cantato, e che ci aspetta, dove non ci sarà più dolore, non ci sarà più malattia, dove non ci sarà più sofferenza, dove saremo liberi, non avremo più stanchezza. Ci pensate? E mangeremo tanto. Quanti hanno mangiato tanto oggi? A quanti piace mangiare? Ah, che bugiardi! Chi non ha alzato la mano, il Signore ti perdoni. A noi tutti italiani ci piace mangiare. E sapete una cosa? Il regno dei cieli, il paradiso, il posto che ci aspetta e che Dio sta preparando, che Gesù sta preparando per noi, prevede che noi mangeremo. Sarà un luogo di delizia, sarà un luogo di eterna, costante, meravigliosa gioia. Io non vedo l'ora. È per questo che l'apostolo Paolo, quando l'ha capito bene, ha detto: per me vivere è Cristo e morire è guadagno. Noi abbiamo un guadagno nel momento in cui passiamo da questo soggiorno terreno alla vita successiva, alla vita eterna, il cui accesso ci è reso possibile mediante Cristo Gesù. Gesù dice: io sono la via, io sono la verità, io sono la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se tu credi in Cristo Gesù, non sei giudicato, ma sei liberato, salvato e hai accesso alla vita eterna. Allora, il popolo di Israele è uscito dall'Egitto e si è ritrovato davanti alla prima sfida. E noi leggiamo di questa sfida in Esodo, al capitolo 14, dal versetto 8, dove c'è scritto: il Signore indurì il cuore del Faraone, re d'Egitto, ed egli inseguì i figli di Israele che uscivano a testa alta. Il popolo di Israele usciva a testa alta. Per chi ha letto la storia sa che è uscito armato, loro che erano dei poveracci, degli schiavi, costretti a lavori forzati, escono dall'Egitto armati, arricchiti, oro, beni preziosi vengono dati loro dagli egiziani, perché questa era la volontà di Dio, e quindi a testa alta, ve lo potete immaginare, siamo liberi, siamo sotto un nuovo governo, possiamo andare via, non dovremo fare i lavori forzati. A testa alta uscirono. Però gli egiziani, leggiamo nel versetto 9, dunque li inseguirono. tutti i cavalli, i carri del faraone, i suoi cavalieri e il suo esercito li raggiunsero mentre essi erano accampati presso il mare, vicino a Pi Achirot, di fronte a Baal Sefon, nella zona di Bitonto, Giovinazzo. Quando il faraone si avvicinò, i figli di Israele alzarono gli occhi ed ecco gli egiziani marciavano alle loro spalle. Allora i figli di Israele, sarebbe così bello se a questo punto della storia noi leggessimo, allora i figli di Israele, pieni di fiducia, si alzarono in coro e cominciarono a cantare, alleluia, non canto più, ve lo prometto, tu ci hai liberati, grazie Dio, tu sei colui che ha fatto cambiare l'acqua in sangue, tu sei colui che ha mandato le locuste, tu sei colui che ha mandato le mosche, tu hai fatto scendere dal cielo fuoco e grandine, tu hai giudicato gli egiziani facendo morire i primogeniti, tu certamente ci libererai da questa situazione, la nostra fiducia è in te, Dio onnipotente. Sarebbe bellissimo se leggessimo questo, purtroppo non lo leggiamo però. Invece leggiamo, allora i figli di Israele ebbero una gran paura. Ebbero una gran paura, gridarono al Signore e dissero a Mosè. Ascoltate la colonna sonora di questa lamentela. Mancavano forse tombe in Egitto per portarci a morire nel deserto? Che cosa hai fatto facendoci uscire dall'Egitto? Era appunto questo che ti dicevamo in Egitto. Lasciaci stare, che serviamo gli egiziani, poiché era meglio per noi servire gli egiziani che morire nel deserto. La leggete questa colonna sonora. Vi parlo in prima persona. Io mi riconosco in questa colonna sonora. Ma come, Dio? Come? Mi hai portato qui? Ma non vedi quello che mi sta succedendo? Non vedi la minaccia dei miei nemici? Non vedi quello che mi circonda? Dio, ma dove sei? Questa è la colonna sonora che il popolo di Israele ha cominciato ad avere. La musica è cambiata e dall'essere a testa alta cominciano ad abbassare la testa. Leggiamo che hanno avuto grande paura. Vi siete mai trovati in una situazione del genere? Ve la descrivo meglio. Il popolo di Israele viene guidato da Dio in un percorso nel quale ora è bloccato, è in trappola letteralmente, perché davanti a loro hanno un mare, un'estensione di acqua che non poteva essere superata, e alle loro spalle vedevano il fumo, l'alzarsi di tutto questo tumulto dell'esercito degli egiziani con carri, cavalli, inferociti che correvano verso di loro. E il popolo di Israele era accampato qui, in questa situazione, in trappola. Ti sei mai trovato in una situazione del genere? Dove ti guardi attorno e tutto quello che vedi è sciagura. Non vedi via d'uscita, ti senti claustrofobico e cominci ad avere paura. Paura nelle circostanze anche quotidiane, lo puoi abbinare a quello che può essere la tua situazione, che so, al lavoro, per una mancanza di lavoro, e ti senti in trappola, vedi la minaccia delle bollette che arrivano e l'impossibilità di muoverti in avanti perché non c'è soluzione, hai mandato tutti i tuoi curriculum a tutte le aziende che ci sono sparse nel territorio a te vicino, ti trovi in questa situazione, forse nel tuo matrimonio, dove non vedi via d'uscita perché ti senti solo minacciato in questa relazione che adesso è stretto e non vivi più niente di buono perché vedi solo rovina attorno a te e vuoi scappar via e non riesci a capire come. In questa situazione, in questo accampamento, è dove noi rischiamo di far suonare quella melodia e quella musica che è rovinosa e disastrosa per noi e per chi ci circonda, perché è qui che o ci cadiamo in una depressione, ci grogioliamo in quello che è la lamentela, ci abbattiamo e abbassiamo il capo perché non crediamo più in un Dio liberatore, oppure, cosa a volte molto più grave, troviamo una nostra via d'uscita. E quello che il diavolo spesso fa e proporre la peggiore delle vie d'uscita come la migliore delle soluzioni. E a volte ci ritroviamo in questa condizione che vogliamo essere liberi, liberi da questo insieme di emozioni negative, e ricorriamo magari all'alcol perché l'alcol ci può distrarre, al gioco, ai vizi, alle dipendenze, perché vogliamo evadere. Ci sono anche cose molto più innocue, ma non fanno altro che essere dei placebo simili a tutto questo, negativi per la nostra vita. Ci mettiamo lì davanti al nostro televisore, magari ci riempiamo di film e di serie televisive. Perché? Perché dobbiamo evadere da quello che è la realtà. E tutti noi cerchiamo di evadere da quella che è la realtà quando la realtà diventa difficile. Ma Gesù è il nostro liberatore. Gesù vuole liberarti e lo vuole fare oggi, vuole darti il segreto per essere libero. Non vivere solo un'esperienza singola di liberazione che ricordi nel tuo passato, ma essere il tuo costante riferimento, il tuo condottiero, fuori da ogni trappola che si presenta nella tua vita, fuori da ogni minaccia che c'è attorno a te. Gesù è il migliore Mosè che alza il suo bastone per liberarti e creare strade dove strade non ci sono. Gesù è il migliore liberatore che ha la risposta ad ognuna delle nostre situazioni. Gesù è il miglior riferimento nel posto in cui ti trovi. Quindi quello che noi leggiamo è qualcosa di incredibile, perché da poco il popolo di Israele ha sperimentato la mano potente di Dio, la sua fedeltà, il suo intervento per liberarli, e in poco tempo loro passano ad essere sconfortati, amareggiati, nella paura più totale. Perché vi sto dicendo questo? Perché vorrei oggi celebrare la vera Pasqua, non la Pasqua di quel liberatore che interviene a bacchetta quando desideriamo noi, ma la vera Pasqua che è la possibilità di vivere pace e tranquillità in ogni circostanza e in ogni situazione. Leggete con me la risposta di Mosè. Perché noi abbiamo appena letto che i figli di Israele ebbero una gran paura e gridarono al Signore, dissero a Mosè: mancavano forse tombe in Egitto per portarci a morire nel deserto. Che cosa hai fatto facendoci uscire dall'Egitto? Era appunto questo che ti dicevamo in Egitto: lasciaci stare che serviamo gli egiziani, poiché era meglio per noi servire gli egiziani che morire nel deserto. Ma Mosè, e sentite ora come cambia la musica. E Mosè disse al popolo: non abbiate paura, state fermi e vedrete la salvezza che il Signore compirà oggi per voi. Infatti gli egiziani che avete visto quest'oggi non li rivedrete mai più. Il Signore combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli. Non leggete nelle parole di Mosè lo stesso tipo di linguaggio che Gesù aveva, che Gesù ha, quando diceva: perché siete così ansiosi di ciò che vi vestirete o di ciò che mangerete? Perché non vedete i gigli dei campi, gli uccelli dei cieli? Statevi sereni, non preoccupatevi. Cercate prima il suo regno e la sua giustizia e tutto vi sarà sopraggiunto. Non vedete che è lo stesso tipo di melodia, non vedete che è lo stesso tipo di linguaggio? Mosè anticipava quello che era il messaggio ancora più grande, ancora più vittorioso e potente che noi abbiamo in Cristo Gesù. Gesù è il migliore Mosè che ti dà conforto e ti dice: non avere paura, non essere in ansia, non essere sotto pressione alcuna, perché io sono il tuo liberatore, perché io mi prendo cura di te, perché io so quello che sto facendo nella tua vita, perché io ti sto conducendo anche davanti al mare e anche nel mezzo di quella che può sembrare una tomba, una trappola per la tua vita, ma perché io voglio manifestare la mia gloria in te. Sapete perché sono così certo di quello che sto dicendo? Perché noi lo leggiamo poco prima, È straordinario quello che leggiamo in Esodo 14 dal versetto Esodo 13 dal versetto 17. Il capitolo precedente, il popolo di Israele è appena uscito dall'Egitto. E leggete con me queste parole. Quando il faraone ebbe lasciato andare il popolo, Dio, non una bussola, non Google Maps, non la scelta di Mosè, Dio non lo condusse per la via dei Filistei, benché fosse vicina, poiché Dio disse: bisogna evitare che il popolo di fronte a una guerra si penta e torni in Egitto. Sapete in altri termini che cosa significa questo? Che Dio ha scelto quella via per il popolo di Israele. Che Dio ha scelto di mettere in trappola il popolo di Israele, se la vogliamo mettere così, cruda e nuda com'è. Che Dio ha scelto che loro si trovassero davanti a un mare. Che Dio ha scelto che loro si trovassero in una condizione dove vedevano avvicinarsi l'esercito del faraone. E non ha aperto il mare alla prima nuvoletta che il popolo di Israele ha visto, di questi carri e di questi cavalli. No, li ha fatti avvicinare minacciosamente. Dopo nella storia leggiamo che Dio poi ha creato una nuvola che oscurisse la vista degli egiziani. Quindi erano proprio vicini al popolo di Israele. Dio ha voluto che loro si trovassero in questa condizione di minaccia, di paura e di senso di trappola. Perché? Perché l'altra strada, che era più veloce, che era più spedita per loro, prevedeva una battaglia e Dio sapeva che il popolo di Israele non era preparato alla battaglia e che davanti alla guerra sarebbero fuggiti e tornati in Egitto. Dio sa cos'è meglio per te. Se ti trovi davanti a un mare, ringrazia Dio che non sei davanti a una guerra. E se ti trovi nella guerra, ringrazia Dio perché evidentemente Lui ti vede all'altezza di poterla affrontare. Dio è sempre comunque con noi. Dio vuole liberarci e Dio ci mette in condizione di fidarci di Lui e di sperimentare la sua liberazione, non una volta nella vita, ma una liberazione costante. La nostra vita vuole essere, Dio desidera che sia, una marcia trionfante di gloria in gloria, dove tappa dopo tappa noi ci facciamo guidare da Dio e nella fiducia che poniamo nella sua guida, nella sua autorità, vinciamo ogni singola minaccia, ogni singola sfida, ogni singola battaglia. Sappiamo che la storia del popolo di Israele va avanti. Non entrano subito nella terra promessa. E la tua storia va avanti. E vuole essere un cammino che va di gloria in gloria. Dio è glorificato nelle circostanze difficili della tua vita. Dio è glorificato nel tuo dolore, nella tua sofferenza e nella tua paura. Dio è glorificato perché Lui vuole, attraverso le circostanze minacciose attorno a te, farti crescere in statura, farti crescere in fiducia, farti crescere nella preghiera, fatti crescere nella dipendenza a Lui, nel digiuno. Sapete, non è stato un male che il popolo di Israele si è lamentato. È stato un male che si è lamentato contro Mosè e non ha vissuto la sua lamentela e lo suo scoraggiamento con Dio. Perché nella storia del popolo di Israele noi leggiamo che Mosè si è andato a lamentare con Dio. Se tu vai da Dio e ti lamenti con Lui e chiedi a Lui spiegazione per quello che stai vivendo, farai la scelta giusta e crescerai nella tua dipendenza a Lui e Lui creerà una strada in te. Noi leggiamo tanti salmi dove il salmista si lamentava davanti a Dio. Fallo con Dio, ti devi lamentare? Fallo nella tua stanzetta, chiusa la porta alla presenza di Dio. Fallo in preghiera, fallo nel digiuno, fallo accompagnato dalla lettura della parola. E allora avrà comunque senso pure quella lamentela. Ma se la tua lamentela ti porta al tuo isolamento, alla tua autonomia e a non riconoscere più che hai un liberatore e a non riconoscere più che hai una guida che è meglio di Mosè, quella può essere la tua fine, la tua morte spirituale, il tuo rimanere in trappola, il tuo rimanere nell'ansia, il tuo rimanere nella depressione. Dio è glorificato attraverso quello che tu stai affrontando e lo sarà sempre di più mano a mano che tu cresci nella tua dipendenza a Lui. Sapete perché uso questo termine? Glorificato. Perché Dio stesso che lo usa e lo usa in questa storia. Se leggete con me in Esodo, sempre al capitolo 14, dal versetto 15, quindi continuando la storia che leggevamo prima, noi leggiamo questa conversazione di Dio con Mosè, perché Dio parlava faccia a faccia con Mosè, come lui vuole parlare faccia a faccia con te. E il Signore disse a Mosè, noi leggiamo nel versetto 15, perché gridi a me? Di ai figli di Israele che si mettano in marcia. Alza il tuo bastone, stendi la tua mano sul mare e dividilo. E i figli di Israele entreranno in mezzo al mare sulla terra asciutta. Quanto a me, io indurirò il cuore degli egiziani. E anch'essi entreranno dietro di loro. Io indurirò il cuore degli egiziani. Io non ti libererò subito. Io non te li farò sparire immediatamente. Io li renderò ancora più minacciosi. Li farò scendere con voi nel mare. Io indurirò la situazione. Io la farò più dura. E perché? Leggete con me. Quanto a me, io indurerò il cuore degli egiziani e anch'essi entreranno dietro di loro, io sarò glorificato nel faraone e in tutto il suo esercito, nei suoi carri e nei suoi cavalieri. Gli egiziani sapranno che io sono il Signore. I tuoi colleghi di lavoro sapranno che Dio è il Signore. Tua moglie e tuo marito sapranno che Lui è il Signore. I tuoi vicini di casa, i tuoi amici, i tuoi confidenti, i tuoi amici reali e quelli virtuali sapranno che tu appartieni al Signore. Gli egiziani sapranno che io sono il Signore quando sarò glorificato nel faraone, nei suoi carri e nei suoi cavalieri. Per due volte noi sentiamo Dio parlare e nominare questo termine. Io sarò glorificato. Te lo ripeto, io sarò glorificato. Che cosa significherà? Che cosa significa? Significa che Lui si eleva a gloria. Si eleva a splendore, si eleva a maestà e si fa vedere per quello che è. Attraverso cosa? Attraverso le circostanze difficili che tu affidi a Lui e Lui opera potentemente per liberarti davanti a tutti gli altri. La mia e la tua scelta stasera è a cosa vogliamo guardare. Puoi ancora stare lì in quel posto a guardare quanto è grande il mare, quanto minaccioso è l'esercito. Puoi stare ancora lì a aggrogiolarti nella tua lamentela, nelle cose che non vanno. Puoi stare ancora lì in quell'accampamento isolato a cercare distrazioni a destra e a sinistra per dimenticare quello che stai vivendo. O nel posto in cui ti trovi puoi riconoscere oggi con me che hai un liberatore. Che ti dice questo, perché è Mosè che dice questo al popolo di Israele sotto indicazione e istruzione di Dio: alzati e mettiti in marcia. alzati e mettiti in marcia. Mosè non aveva ancora alzato il suo bastone, il mare ancora non si era diviso, ma prima di fare questo dice al popolo di Israele: non è più tempo di stare seduti, non è più tempo di essere accampati, c'è una libertà per noi, alziamoci e mettiamoci in marcia. E io ti dico questa sera che Dio sta parlando alla tua vita e ti dice: alzati e mettiti in marcia, alzati e fai al meglio quello che sai che devi fare, alzati e confida nel tuo liberatore, alzati e affidati al tuo conduttore, al tuo condottiero che ti porta di gloria in gloria, di vittoria in vittoria. Dopo il mare forse ci sarà la mancanza d'acqua, è quello che il popolo di Israele ha vissuto, e avrai sete al punto tale da pensare di morire, ma Dio sarà di nuovo il tuo liberatore che farà scorrere acqua dalla roccia nel deserto. E dopo l'acqua ci sarà probabilmente la mancanza di cibo, e dopo la mancanza di cibo e dopo il mare ci sarà un fiume da attraversare, e dopo il fiume da attraversare ci saranno città fortificate da abbattere. Ma in ogni e in ciascuna di queste sfide Dio vuole manifestare la sua gloria nella tua vita. Non vuole che sei tu il conquistatore delle tue conquiste, ma che lui prenda gloria da ciascuna delle situazioni che ti ritrovi ad affrontare. Alzati e mettiti in marcia, ti dice stasera il Signore. Alzati e confida nel tuo liberatore. Alzati e prega come non hai mai pregato. Alzati e adora il suo nome come non l'hai mai adorato. Alzati e adotta un linguaggio che non è il linguaggio di lamentela, che non è il linguaggio di paura, ma che è il linguaggio di fede, che è il linguaggio di Matteo 6, che dice: non ho ragione di essere in ansia per cosa alcuna, perché lui provvede a me. Io sono convinto che in questo momento il Signore sta parlando al tuo cuore, perché ti ama, ti ha portato qui per una ragione. Lui ti ama, lui ti ama. Non rimanere accampato, non rimanere nelle tue paure, non rimanere nell'ansia, non rimanere ad osservare l'esercito, non rimanere ad osservare il mare, non rimanere a vedere e guardare le cose che sono reali e evidenti nella tua vita. Guarda oltre, alza lo sguardo, perché Dio, come ti ha liberato una volta, vuole continuare a liberarti giorno dopo giorno, perché lui è il tuo liberatore e ti vuole far camminare sempre a testa alta, e vuole manifestare la sua gloria attraverso la tua vita, tutto attorno a te. E altre persone riconosceranno che c'è qualcosa di speciale in te, c'è qualcosa di miracoloso e di potente nelle tue scelte, c'è qualcosa di miracoloso e di potente in come tu affronti il mare, in come tu affronti la minaccia dell'esercito, perché Dio è con te e tu ti affidi al tuo liberatore costantemente. Stasera lui vuole liberarti, e ancor di più lui vuole essere il tuo liberatore. Voglio concludere portandovi alla riflessione di una storia che leggiamo nei Vangeli. C'erano 10 lebbrosi malati, disperati. I lebbrosi erano appartati e camminavano con un campanaccio, perché questa malattia infettiva nessuno la voleva avere, e quindi loro dovevano avvisare le persone che avevano questa malattia, ed è per questo che portavano questo campanaccio, così che le persone non li potessero toccare, si potessero allontanare da loro. E questi 10 lebbrosi incontrano Gesù e chiedono a Gesù di guarirli. E Gesù, nella sua meravigliosa grazia, nella sua potenza, li libera dalla malattia. Li guarisce tutti e 10. E tutti e 10, a testa alta, vanno via. Vanno via perché hanno ottenuto questa guarigione. Lo scopriranno dopo, ma ottengono questa guarigione. E di questi 10, se la memoria mi accompagna, solo uno è tornato da Gesù. Solo uno di questi 10 non si è limitato ad afferrare la liberazione, ma ha voluto glorificare il liberatore. Ha voluto il liberatore oltre la liberazione. E questo lebbroso, quando è tornato a Gesù, lo ha adorato, lo ha ringraziato, e credo che in quel momento ha dato la sua vita a Gesù. E la domanda che Gesù ha fatto è stata questa: non sono stati tutti 10 guariti? Dove sono gli altri 9? Sapete dove erano? Erano a vivere di nuovo la loro vita, perché avevano ottenuto la loro liberazione, ma non desideravano il liberatore. Volevano essere liberati dalla malattia, volevano essere liberati dalla circostanza negativa che vivevano, ma non erano attratti da colui che è liberazione costante per le nostre vite. E c'è stata condanna da parte di Gesù per quei 9. E io spero, la mia preghiera per te che mi stai ascoltando questa sera, è che Gesù non possa essere il liberatore sporadico che interviene quando le tue circostanze si fanno più difficili e dure, al quale ricorri perché sei in una circostanza dalla quale ti vuoi liberare. Ma la mia preghiera è che tu possa vivere quel Gesù che è guida per te ogni nuovo giorno, che è liberazione per te in ogni nuovo giorno, che è motivo di adorazione, che è motivo di sottomissione quando le cose vanno bene e quando le cose vanno male, quando le stagioni sono positive e anche quando sono negative, quando c'è la guarigione e quando c'è la malattia, quando c'è la minaccia e quando si è liberi dalla minaccia. Dio vuole che noi impariamo ad essere dipendenti da Lui costantemente, ed è per questo che Giacomo dice: considerate motivo di grande gioia le prove svariate della vostra vita, perché la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza in voi vi porta alla perfezione. Dio vuole renderti perfetto, un figlio costantemente dipendente da Lui. E stasera io voglio farti fare questa scelta. Io voglio pregare che Gesù possa liberare, guarire stasera, che Gesù possa far venir meno tutte le circostanze negative, il mare, che Lui lo possa aprire, l'esercito, che Lui lo possa annientare nella tua vita. Ma ancora di più io voglio pregare che la tua fiducia possa essere completamente nel tuo liberatore, costantemente, per ogni giorno, davanti ad ogni prova. La prova di oggi è la prova che avrai domani. Vogliamo alzarci in piedi. Signore disse a Mosè: perché gridi a me? Di ai figli di Israele che si mettano in marcia. Di ai miei figli che la vita non è finita, che il percorso non è terminato, anzi è appena iniziato. Di ai miei figli che si rimettano in marcia. Oggi è il giorno che Dio ha stabilito per molti di noi di rimetterci in marcia, di riprendere il cammino, di vincere e conquistare ancora con Dio il nostro condottiero di gloria in gloria. Se questo è quello che desideri, io ti chiedo di alzare le tue mani dovunque ti trovi. Se ti vuoi arrendere a Dio, forse è la scelta che fai per la prima volta arrendi il tuo cuore a Gesù, allora ti chiedo di alzare le tue braccia al cielo. Forse sei in una stagione negativa, davanti a circostanze minacciose. Alza le tue mani al cielo. Alza il tuo sguardo, alza la tua testa. Voglio pregare per te. Signore Gesù, tu che sei la nostra guida, tu che sei il Mosè migliore, il conquistatore migliore, colui che alza in sua autorità la voce e apre i mari e crea vie nel deserto, io ti prego, guarda i nostri cuori, guarda le nostre vite e intervieni. Facci alzare in piedi e facci rimettere in marcia. Noi vogliamo passare di gloria in gloria. Noi vogliamo fare in modo che le circostanze che adesso ci accerchiano siano motivo di gloria per il tuo nome. Che le cose che non vanno nella nostra vita e che ancora non sono risolte siano nelle tue mani e che tu possa essere glorificato attraverso le circostanze che attraversiamo. Noi vogliamo essere fiduciosi in te quando usciamo dall'Egitto e vogliamo essere fiduciosi in te quando ci troviamo davanti al mare e sotto la minaccia dell'esercito egizio. Noi vogliamo essere fiduciosi in te quando c'è il sole, quando tutto splende nella nostra vita, e vogliamo essere fiduciosi in te quando c'è oscurità e c'è oppressione. Noi vogliamo fidarci di te e mettere te al primo posto. Noi vogliamo cercare il tuo regno e la tua giustizia, sapendo che ogni cosa ci sarà sopraggiunta. Non vogliamo essere in ansietà solleciti da cosa alcuna, vogliamo fidarci di te e vogliamo la tua melodia, la tua canzone, la tua musica nelle nostre giornate. Libera il tuo popolo, te lo prego Gesù. Se c'è qualcuno che qui ha bisogno di liberazione in qualsiasi area della propria vita, io prego che possa essere liberato per la potenza del tuo nome, Gesù. Che tu ti possa elevare in piena autorità in queste vite e possa dare a loro vittoria. E ancora di più, Padre, io prego che ogni cuore sia reso a te oggi. Noi vogliamo celebrarti, non solo per quello che tu hai fatto una volta per le nostre vite, ma noi vogliamo celebrarti per il liberatore che tu sei quotidianamente per ciascuno di noi. A te la gloria e l'onore.